Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e di nuovo con Sebastiano Barisoni per questa puntata. Ricordo agli ascoltatori che durante tutta la settimana l'orario sarà ancora quello del palinsesto estivo, quindi il programma termina alle 18, da lunedì prossimo entreremo in palinsesto, diciamo, autunnale regolare. Per quello che riguarda i temi di questa giornata ci occuperemo ancora chiaramente del terremoto sul fronte che riguarda le inchieste da un lato e le polemiche, le avete già lette, ma non sono polemiche, sono accuse vere e proprie. Di polemica non c'è nulla quando si parla di morti, sono accuse vere e proprie e in particolare torneremo a occuparci dei lavori famosi che avrebbero dovuto mettere in sicurezza, ed diventa quasi beffarda come espressione, alcuni edifici, in particolar modo la scuola, ma non solo, perché il Sole 24 Ore sta lavorando anche sul fronte delle inchieste. Per quello che riguarda invece in maniera più stretta i temi di carattere economico finanziario, devo dire che oggi commenteremo alcuni dati non belli, iniziamo subito bene, su fiducia di consumatori e imprese e anche sulle intenzioni d'acquisto. Sta delineando un settembre assolutamente freddino per quello che riguarda i dati economici. I dati di oggi fanno e seguono soprattutto quelli già diffusi sul mercato del lavoro. Anche in questo caso, senza girarci troppo attorno, non sono dati belli, ne parleremo fra un attimo, per chi se li fosse persi la scorsa settimana. Non sono dati belli da un punto di vista numerico, ma anche e soprattutto da un punto di vista della qualità di questi dati. Quando, insomma, vediamo che sono aumentati moltissimo i voucher, va bene, più 40%, ma sono calate nel primo semestre le assunzioni nel privato, meno 10%, che hanno coinvolto soprattutto i contratti a tempo indeterminato. Beh, questo dato, così entriamo subito nel tema, fa il paio con quanto oggi diffuso dal Eurostat, ossia l'Italia è il paese in Europa dove più disoccupati hanno rinunciato a cercare lavoro dall'inizio del 2016. E sappiamo benissimo come funziona il dato: quando tu cerchi lavoro e non lo trovi sei un disoccupato, se rinunci a cercare lavoro non sei più considerato un disoccupato e sei un non occupato, da lì la famosa distinzione tra disoccupazione e occupazione. Però insomma tutti questi dati presi assieme vanno, ahimè, in un'unica direzione: un raffreddamento, un rallentamento del mercato del lavoro totale e un raffreddamento anche nella fiducia di consumatori e imprese. È la quinta flessione economica per quello che riguarda il clima, la quinta flessione per quello che riguarda il clima economico delle famiglie, male tutti i settori. L'indice composito è sceso da 103 a 99 punti, ma è sceso a 100, era sceso a 99 dopo gli attentati di Nizza. Poi in realtà anche quello dei consumatori è sceso da 111 a 109 punti. Il clima economico complessivo scende da 129 a 125 punti. Al di là dei punti, il dato di fondo è che è calato, sono tutti calati questi indicatori, e risultano in deciso calo, il dato è di oggi dell'Istat, anche le intenzioni delle famiglie di acquistare beni durevoli. Beni durevoli sono quelli appunto non di largo consumo, intesi come automobili, abitazioni, tutti i beni appunto elettrodomestici. E allora perché sono importanti? Perché l'acquisto di un bene durevole è un segnale di fiducia nei confronti del futuro. Uno può rinviare l'acquisto dell'automobile o l'acquisto dell'abitazione o l'acquisto dell'elettrodomestico in molti casi se non si fida dell'andamento prossimo a breve termine dell'economia. Ebbene, le intenzioni di acquisto passano da meno 31 a meno 39 e le intenzioni di acquisto futuro passano da meno 58 a meno 69. Sostanzialmente nell'indagine meno di un consumatore su 10 ha manifestato l'intenzione di comprare un'automobile e l'acquisto di una casa è risultato nei piani di meno di 3 consumatori su 100, solo il 2% lo ritiene probabile, lo 0,8% certo. E mentre sull'automobile il 6,4% l'ha indicato come probabile e il 2,8% come certo. Di questo parleremo nel giorno in cui c'è anche ed è in corso il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi. Qui veniamo alla borsa E per quello che riguarda la borsa, oggi proprio il Monte dei Paschi è l'unico titolo bancario con il segno più, più 1,52%. Poi c'è Ferrari più 0,77%, Ferragamo più 0,60%. E l'indice complessivamente perde l'1%, mentre Parigi perde lo 0,30% come Francoforte, Londra guadagna lo 0,30%, il Dow Jones lo 0,60%. Chi non va bene oggi? Azimut meno 2,80%, Popolare Emilia Romagna meno 2,50%, Exor, controllante del gruppo Fiat, meno 2%, Ubibanca meno 2%, come Generali, IUX e Traporte meno 1,70%, l'1,60% lo perdono Mediolanum, Saipem, Mediobanca ed Enel, ma anche Unipolsai, Tenaris e Prismian. 349-238-6666, come sempre il numero per SMS e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Parleremo oggi anche di un altro tema e mi riferisco a quello che potrebbe essere o quella che potrebbe essere la pietra tombale ho letto Londra, avete ragione, Londra è chiuso oggi per Bank Holiday, ho letto il dato dell'ultima chiusura di Londra, ci mancherebbe, dicevo l'elemento che potrebbe essere la pietra tombale sui famosi tentativi di trovare un accordo commerciale tra le due sponde dell'Atlantico, tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Ne abbiamo parlato già altre volte, il negoziato sull'accordo di libero scambio si chiama TTIP, starebbe per Transatlantic Trade and Investment Partnership. Da quello che abbiamo visto è di fatto già fallito, nel senso che il vice cancelliere e ministro dell'economia tedesco Sigmar Gabriel ha detto oggi: ritengo che i negoziati con gli Stati Uniti siano de facto falliti, anche se nessuno lo vuole ammettere veramente. Ha detto infatti Gabriel che in 14 incontri, si chiamano round di colloqui, le parti non hanno trovato un'intesa nemmeno su un capitolo dei 27 sul tavolo. Ne parleremo in apertura, perché l'obiettivo del trattato era, al di là delle varie polemiche che lo hanno accompagnato in questi mesi, era quello di ridurre le tariffe e aprire i mercati in tutti i settori tra Stati Uniti e Unione Europea, quindi armonizzare i regolamenti per rendere più fluidi gli scambi. Gli scambi tra Unione Europea e Stati Uniti valgono 2 miliardi di euro al giorno e secondo alcune stime l'accordo di maggiore liberalizzazione degli scambi avrebbe portato un vantaggio per l'Unione Europea di mezzo punto percentuale di PIL, stiamo parlando di 120 miliardi di euro. Poi c'erano i timori anche italiani, dei produttori italiani, per fare in modo che venissero tutelate le produzioni italiane. Più volte abbiamo detto che l'idea che gli Stati Uniti accettassero la nostra DOP, le denominazioni di origine, le indicazioni di origine, era un tentativo molto molto ardito, quasi impossibile. Detto questo, se la Germania ritiene che i trattati siano falliti, mi sembra che quantomeno la pausa di sospensione sia certificata. Sempre sul fronte dell'economia internazionale, oggi è entrato nel vivo al Senato brasiliano il procedimento di impeachment contro la presidente Dilma Rousseff, attesa in aula per difendersi dalle accuse di aver utilizzato artifici contabili per mascherare i reali conti dello Stato. La Rousseff le respinge, sostiene che siano state fabbricate dalle opposizioni per mascherare un golpe parlamentare. A fianco della Rousseff vi saranno anche l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva e il presidente del Partito dei Lavoratori Rui Falcao, e anche ex ministri e leader dei movimenti sociali. Di buone notizie oggi, cercandole, ma insomma qualcosa si riesce a trovare, per esempio ancora una volta l'asta dei nostri titoli di Stato. Il tasso a sei mesi dei bot ha toccato un minimo record negativo dello 0,236%, venduti tutti i 6 miliardi in offerta, che vuol dire che pur di mettere i soldi da qualche parte si preferisce avere rendimenti negativi e quindi prestare soldi allo Stato italiano sapendo che si otterranno meno soldi anche a livello nominale di quanto si è prestato, meno 0,2% su base annua. Questo vuol dire E tra l'altro il rendimento è un calo netto anche rispetto al collocamento dei bot a 6 mesi a luglio, che già segnalano un rendimento negativo dello 0,18%, adesso siamo allo 0,23%. Domanda molto forte, nonostante questi rendimenti negativi. Su 6 miliardi offerti, la domanda è risultata di 9 miliardi. Allora, vedo qualcuno. Non iniziamo subito con le polemiche, se posso. Io non gioisco quando ho i dati negativi, quindi a me chi scrive, vedi, te l'avevo detto che tutto va male. Non c'è nessuna gioia, c'è delusione e preoccupazione, ma gioia per i dati negativi mi sembra di un masochismo estremo, lo dico ad alcuni ascoltatori che invece mi sembra scrivano una logica del tanto peggio, tanto meglio. Sono tutti in deciso calo e tra l'altro questo pone, ma avremo modo per parlare nelle prossime puntate, anche più di un interrogativo sulla manovra finanziaria, sulla legge di stabilità, come si chiama adesso, che il governo dovrà presentare entro novembre. Insomma, con numeri tutti in peggioramento non ci vuole un genio per capire che devi ottenere o cercare maggiori margini, o se no questi margini si sono ristretti. Per quello che riguarda, visto che parlavamo di margini e di bilancio, oggi l'Unione Europea ha fatto sapere che per quello che riguarda le spese, le misure di ricostruzione nel caso del terremoto che ha colpito il centro Italia, si applicherà la stessa regola di calcolo che è stata utilizzata per i terremoti di Abruzzo e di Emilia-Romagna. Quindi i costi di emergenza a breve termine che si possono escludere dal deficit sono quelli, si limitano a quelli direttamente e immediatamente fatti scattare dalla catastrofe. Per cui tutti i costi necessari a contenere i danni e a prevenire un impatto anche maggiore, assistenza medica diretta, vitto alloggio per le vittime, costi per l'inquinamento e la distruzione. L'eccezionalità dei costi dipende poi della dimensione del paese, dai fattori specifici nazionali che andrà a poi valutare la Commissione Europea. La Coldiretti nel frattempo fa sapere che ad Amatrice il 90% delle stalle sono state danneggiate, crolli che hanno provocato morti, oltre che ahimè tra gli umani, anche tra gli animali, e manca praticamente tutto. Sono necessarie anche l'acqua potabile, i mangimi, i generatori di corrente, i refrigeratori, i carrelli per la mungitura, pali, i fili elettrificati per le recinzioni. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo col primo tema, poi arriveremo anche alle inchieste sulle spese pre-terremoto in quelle aree. Il primo tema, ossia la pietra tombale che apparentemente il ministro dell'economia tedesco Gabriel ha messo su queste famose trattative o tentativi di arrivare a un accordo di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti. Allora, gli elementi di attrito in queste trattative sono stati molti, li abbiamo raccontati, e ha ragione a dire il ministro tedesco che su 14 capitoli, su 14 round, tavoli di lavoro, non si è trovata un'intesa su un solo capitolo, neanche uno dei 27 sul tavolo. L'Europa voleva conservare, come dicevo, la DOC, cioè quindi la denominazione di origine sui prodotti agroalimentari. Gli OGM, lo dico subito, non rientravano nei temi del trattato. E non vuole rinunciare invece per i prodotti di importazione americana ai propri standard di tutela dei consumatori. Gli Stati Uniti dal loro punto di vista non volevano uniformare le regole dei mercati finanziari e non volevano rinunciare all'obbligo per le aziende che ricevono aiuti di Stato negli Stati Uniti di dare la preferenza ai prodotti made in USA, quindi dei prodotti nazionali. E poi molti osservatori hanno criticato in senso più lato la segretezza con cui si sono svolte molte trattative. Allora, ringrazio per essere in collegamento con noi. Da un lato il professor Giuliano Noci, che insegna strategie di impresa al Politecnico di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a lei, radioascoltatori. E buonasera anche al collega Paolo Bricco, che proprio sul quotidiano, su Sole 24 Ore, ha seguito in questi mesi tutti gli sviluppi del TTIP. Ciao Paolo. Buonasera Sebastiano e buonasera a tutti i radioascoltatori. Paolo, andiamo subito alla notizia, poi veniamo all'analisi. Insomma, anche secondo te, a questo punto, con le parole del ministro dell'economia tedesco Gabriel, non dico che siano morti, ma sicuramente sono in rianimazione queste trattative tra Stati Uniti e Unione Europea? Beh, Sebastiano, le dichiarazioni di Gabriel sono un'autentica bomba conclusiva da parte europea a delle trattative che già da parte americana, non soltanto per Trump ma anche per Hillary Clinton, già non si sentivano benissimo, ecco. Ricordiamo che già i francesi avevano manifestato molte perplessità. Gabriel in qualche maniera ha davvero acceso l'ultimo dei falò, e che potrebbe davvero portare alla conclusione di un passaggio storico molto grave. Giustamente tu ricordavi le cifre su un'ipotetico attuazione del TTIP sono impressionanti, a vantaggio soprattutto dell'Unione Europea, non soltanto degli Stati Uniti, qualora il TTIP ci fosse stato. E certo fa impressione pensare che Gabriel abbia detto noi europei non abbiamo accettato di sottometterci alle richieste degli americani. Ecco, è un noi europei un po' particolare, perché ricordiamolo che il sistema industriale tedesco è un hub esteso verso l'est Europa che avrebbe avuto molto meno bisogno del TTIP di quanto ad esempio non avrebbe avuto il sistema industriale italiano. Ecco, questo va detto. Cioè, ecco, è importante quello che tu ricordi. La Germania ormai da 10 anni è diventata una grandissima piattaforma, tu la chiami hub, sia per ricevere prodotti semilavorati che poi lavora, sia per esportare direttamente in quei mercati verso l'est. Sì. Più volte abbiamo raccontato della presenza fortissima della Germania in Cina, ma non solo. E quindi, se ho ben capito il tuo ragionamento, un'economia, un export tedesco molto più orientato verso l'est, per carità, ci sono anche gli Stati Uniti, ma in proporzione più orientato verso l'est rispetto a quello italiano, poteva anche essere meno interessato a un accordo che avrebbe coinvolto comunque anche le imprese tedesche, perché riguardava tutta l'Unione Europea. Era forse... Prego. È assolutamente così, per loro il danno è infinitamente minore, loro hanno un sistema integrato con tutta l'Unione Europea dell'Est, giustamente come dicevi tu, l'Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, dove in sostanza si parla tedesco, tecnologie sono tedesche, i diritti di proprietà sono tedeschi, i passaggi infragruppo dei semilavorati, come dicevi giustamente tu, sono di marca tedesca e vanno tutto a beneficio della Germania. Quindi c'è una solidità nella roccaforte industriale tedesca e, come ricordavi giustamente tu, anche una proiezione verso la Cina e verso l'Asia e anche verso la Russia, no? Ricordiamo i rapporti con Gazprom, l'asse anche con Putin-Merkel, certo, in qualche maniera, che davvero dal punto di vista proprio degli interessi nazionali, che ancora una volta sembrano prevalere sugli interessi europei, e ormai la cifra post-Brexit sembra questo, davvero rende molto meno allarmante quanto successo per la Germania. Invece per noi, ancora una volta, siamo un po' vasi di coccio in mezzo a vasi di ben altre leghe. Ecco. E qui torniamo al tema che i tedeschi, però non voglio partire subito con la prima puntata post estate contro la Germania, però che i tedeschi hanno questo difettuccio di ritenere che quello che è buono per la Germania è buono anche per l'Europa e viceversa. E questo purtroppo l'abbiamo già visto negli anni passati. Il professor Noci è d'accordo intanto con l'analisi di Paolo Bricco, cioè che i tedeschi, tra virgolette, hanno anche maggiore facilità nel dire vabbè, sono saltati sti accordi perché meno coinvolti, meno vantaggiosi per loro? Sì, assolutamente così. Il portafoglio di mercati esteri della Germania è il portafoglio che ha ben empleato Bricco. Noi purtroppo invece abbiamo negli Stati Uniti quello che è di gran lunga il principale mercato di destinazione dei nostri prodotti, e dovremmo far sentire la nostra voce perché, come dire, non possiamo permetterci dal mio punto di vista, che questo tipo di accordo non vada in porto. Tuttavia sono scettico sul fatto che sia uno stop definitivo. Abbiamo elezioni nella Germania l'anno prossimo e elezioni negli Stati Uniti. I nostri radioascoltatori dovrebbero sapere che Hillary Clinton fino a poco fa in realtà era favorevole all'accordo e poi ha cambiato posizione in nome della visione elettorale di breve periodo. Quindi quantomeno un auspicio è che dal 2017 si possa pensare che questo round di negoziale riprenda su posizioni più serie. Certo è che questo è davvero un terremoto economico di dimensioni molto significative per una parte dell'Europa e l'Italia è assolutamente nel mezzo. Ecco, devo dire però, e qui do atto e cerco di sintetizzare i messaggi che mi stanno arrivando sia su WhatsApp che via SMS, che io non so se, come scrive un ascoltatore, l'opinione pubblica italiana era in gran parte contraria, perché è un partito su tutti, se non ricordo male, 5 Stelle aveva espresso fortissime critiche all'accordo. Però vorrei capire, visto che mi arrivano molti messaggi anche di meno male che hanno bloccato, meno male che sono stati seppelliti, meno male che sono stati sospesi. Stupidaggini. Ecco, beh, ognuno può pensarla come vuole, ci mancherebbe noci. Però, visto che c'era stata anche molta preoccupazione sui rischi che gli Stati Uniti poi imponessero i loro, o meglio, che noi non riuscissimo a mantenere gli standard di tutela dei consumatori che abbiamo in Europa e che sono oggettivamente, mediamente più alti di quelli americani, certo. Per cui su questo non c'è nessun dubbio. Ecco, che, perché lei è così preoccupato che saltino, visto che molti ascoltatori dicono meno male, così non veniamo, diciamo, tra virgolette, colonizzati dai modelli, dagli standard statunitensi? Allora, facciamo una prima considerazione. In realtà, adesso al netto del fatto che questi round negoziali sono stati riservati e quindi sappiamo non troppo, tuttavia, quantomeno l'Europa ha portato avanti una posizione in questo momento non accettata che gli standard europei fossero rispettati. Gli OGM, come lei ha detto, non erano assolutamente contemplati. Ma facciamo un'analisi storica. Tutte le analisi degli ultimi, dalla seconda guerra mondiale in avanti, sviluppate dalle più importanti università internazionali, hanno evidenziato come la liberalizzazione degli scambi commerciali abbia portato più occupazione, un incremento del prodotto interno lordo dei paesi che sono stati coinvolti, e questa è veramente una visione dal fiato corto, dello sguardo corto, che colpisce anche la società italiana. Quello che dobbiamo capire è che se l'effetto netto di una liberalizzazione degli scambi commerciali non è tanto in termini di occupazione, ha un effetto ad esempio in termini di efficienza. Cioè, quello che si è osservato negli ultimi decenni è che a fronte di liberalizzazioni è aumentata l'efficienza e la produttività del lavoro, è cambiata la natura dell'impiego delle persone. Questi sono gli aspetti fondamentali a cui dobbiamo prestare attenzione. Tra l'altro continuiamo a guardare con ossessiva e distorta attenzione a questo fenomeno della liberalizzazione del commercio, quando noi stiamo entrando, e ne parliamo ancora poco, in un'onda che è l'onda della robotizzazione, che nel brevissimo periodo avrà effetti davvero molto significativi. Insomma, quello che ci dobbiamo rendere conto è che un'economia aperta è un'economia in cui tutti hanno da guadagnare. Certamente una conseguenza deve essere chiara a tutti, che il profilo occupazionale, il tipo di competenze nel tempo cambia. E mi permetto un'ultima considerazione. Gli Stati Uniti sono stati negli ultimi 30 anni oggetto di un'invasione commerciale da parte della Cina, con un deficit commerciale molto significativo. Non mi pare, e i dati di questi mesi lo dimostrano, che dal punto di vista occupazionale ci siano state poi delle ripercussioni negative. È invece cambiato quello che è il profilo delle competenze degli impiegati americani. Ho capito cosa dice lei. La liberalizzazione, allora, attenzione, stiamo ragionando anche in chiave storica. È innegabile, dati alla mano, che chi si è aperto alla circolazione di capitali e merci nel corso della storia abbia avuto un beneficio economico, chi si è chiuso no, e che la liberalizzazione porti anche a un cambiamento. Voglio fare un esempio su tutti. Insomma, l'attacco cinese o l'invasione dei prodotti cinesi, è vero che ha fatto, e ne abbiamo raccontato, ben prima del 2008, ha messo in crisi interi comparti produttivi di questo paese. È anche vero che è stata la spinta per portare la nostra produzione, penso solo al settore tessile, calzaturiero e altro, a livelli più alti. Cioè, quando ti accorgi che non puoi più competere con la Cina solo sul prezzo, cerchi di competere su un valore aggiunto maggiore. Però, Paolo Bricco, tra le varie obiezioni al TTIP, oltre che il rischio che gli Stati Uniti imponessero a noi standard alimentari loro più bassi, quello che può essere presente, ma su questo devo dire che l'Europa non ha mai detto di voler rinunciare agli standard di tutela dei consumatori. Non ha mai mollato. C'era un altro fronte, come mi scrive un ascoltatore, vergogna, state omettendo completamente il discorso più grave, gli arbitrati dei tribunali privati. Vi stavo arrivando, quindi abbia pazienza, almeno prima di dirmi che mi devo vergognare. Perché all'interno delle trattative c'era anche l'istituzione del cosiddetto ISDS, che non è un gruppo rock heavy metal, ma è il meccanismo di risoluzione delle controversie Stato-imprese, che, adesso non voglio spiegarla tutta perché è un po' tecnica, poteva bypassare la sovranità nazionale, però era un meccanismo che tendeva a penalizzare le imprese più piccole. Tutti hanno citato l'esempio del nucleare in Germania. Dopo la tragedia di Fukushima, la svedese Vattenfall aveva fatto causa al governo tedesco, che aveva deciso di chiudere tutte le centrali. Con il nuovo meccanismo Vattenfall avrebbe potuto vincere impedendo lo stop deciso da Berlino. Ossia, la critica qual era? Che il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stato e imprese rischiava di essere anche superiore, bypassandolo, alla sovranità nazionale. Paolo? Sì, questa è una critica che in qualche maniera è stata condivisa anche da moltissimi giuristi, e quindi non soltanto da una pubblica opinione, tra virgolette, antiglobalizzazioni, ecco, antiglobalista, come alcuni dicono. Evidentemente si tratta di uno degli elementi essenziali della discussione, però io vorrei tornare alla questione di giornata, se mi permettete. E la questione di giornata è il dato politico, cioè al di là dei vari elementi, dei vari capitoli di cui si compone il libro di questo di questo TTIP, che la Germania non ha voglia di andare avanti. Non ha voglia di andare avanti, ma in particolare diventa il TTIP un argomento della lotta politica in Germania. Ecco, noi questa cosa secondo me non è accettabile, perché immediatamente questo pomeriggio poi il portavoce della Merkel ha smentito il vice cancelliere dicendo non è la posizione ufficiale del governo tedesco. Però il punto qual è? Il punto è che ancora una volta nell'agone pubblico nazionale ha prevalso il particolare, ha prevalso la necessità di mettere in difficoltà Angela Merkel, che invece è sempre stata favorevole al TTIP e insieme a Obama lo ha sostenuto fortemente negli ultimi anni, e in qualche maniera l'obiettivo è stato quello di trasformare in una pietra d'inciampo, che però è un pietrone gigantesco diventato, un passaggio a vuoto nel round di agosto, ecco, dei colloqui. A questo punto, secondo me, va chiarito appunto che quando il vice cancelliere Gabriel dice noi europei, dice una cosa che a noi italiani non può stare bene, perché adesso non vorrei, appunto, essendo la prima tua rientro dopo la pausa estiva, Sebastiano, gettare benzina sull'accusa che spesso ogni tanto viene rivolta di eccessiva critica alla Germania, non ne possiamo più di avere una vigilanza bancaria in cui a Francoforte si parla più tedesco che inglese e i problemi delle Landesbank vengono guardati con umana compassione. Non ne possiamo più di avere la politica restrittiva di bilancio come unica possibile salvezza per l'uscita dalla peggiore recessione degli ultimi 50 anni, e adesso anche, come dire, questo argomento diventa un elemento che in qualche maniera cozza contro gli interessi. Tu vuoi che rompa il mio fioretto? Allora, non attaccherò la Germania oggi, però io dico solo che se questo è l'antipasto di quello che succederà, visto che la Germania va a elezioni nel 2017, e questo è l'antipasto, per carità, siamo tutte persone di mondo, comprensibile la politica nazionale, però poi almeno io chiedo la cortesia a non farcela passare come interesse europeo. Di che ti stai facendo i casi tuoi, come spessissimo la Germania ha fatto in questi anni di crisi, stai pensando in primis ai tuoi elettori, alla CDU, alle banche del territorio, ai conservatori bavaresi, e va bene, ne prendiamo atto. Non dire che però hai una visione europea, ed è il solito problema che il paese leader non riesce ad avere leadership, il paese più forte non riesce ad avere un senso della leadership, cioè tenere dietro gli altri. Detto ciò, comunque, e questo vale al di là di quello che uno può pensare sui trattati, e io devo dire che la vera critica in questo momento è la segretezza, perché è anche difficile ragionare. Vedo molti ascoltatori che hanno certezze che io non ho, ma ragionare. Noi sappiamo per esempio che l'Europa non ha mai mollato sul fronte degli standard alimentari, però è anche vero che la segretezza delle trattative non aiuta, mettiamola così, a tranquillizzare la pubblica opinione. E questo va dato come atto di critica, professor Noci, per chiudere, al modo in cui sono mosse queste trattative, perché insomma l'eccesso di segretezza poi alimenta anche la dietrologia. Sono assolutamente d'accordo, questo è stato un errore, probabilmente un errore dettato dalla considerazione che più informazioni si mettevano in circolo e più pressione si esercitava sugli organi decisionali che stavano negoziando. Purtroppo siamo arrivati alla situazione attuale. Mi permette di dire comunque che il momento è vero che la Germania, comprendiamo tutti la situazione politica tedesca, è vero che è sbagliato che la Germania adduca questa sua valutazione come interesse europeo, ma è altrettanto vero che in questo momento dovremmo sentire la voce dell'Italia e di altri paesi fortemente interessati. Sì, professore, però non sfugge a nessuno che anche la Francia è molto freddina sulla cosa, perché pure lì le lobby degli agricoltori, lobby, lo dico senza un'espressione negativa, dico, cioè la pressione del mondo agricolo francese, fortissimo, dei produttori francesi, non è che fosse tutti pronti a abbracciare l'accordo, lo dico perché... No, questo sicuramente. Osservo comunque, adesso non voglio spostare l'attenzione... La Brexit, che è stata voluta dalle campagne inglesi, lo leggiamo sui quotidiani come stia fortemente penalizzando e andrà a penalizzare gli agricoltori delle campagne inglesi. Ho capito. Comunque sia, io credo che purtroppo comunque l'Italia ed altri paesi che avrebbero tutto l'interesse ad affermare una politica, una visione diversa rispetto a questo tipo di accordo, tenderanno in questo momento a non manifestarsi, perché ricordiamo che adesso ci sono anche gli accordi, c'è la legge di stabilità, l'Italia deve negoziare delle condizioni di flessibilità e quindi tutto questo probabilmente si inserirà in una negoziazione tutta europea che indurrà i paesi deboli a trattare, lo dico con massimo rispetto, a trattare maggiore flessibilità europea in cambio di non, esattamente, di non alzare troppi scudi sulla decisione tedesca. Grazie anche per il realismo, poi uno può piacere o no, insomma le valutazioni le lasciamo fuori. E grazie quindi a Paolo Brico del Sole 24 Ore e al professor Giuliano Noci, che insegna strategia di impresa al Politecnico di Milano. Meteo, pubblicità, poi la borsa e i temi della ricostruzione e dei costi della finta messa in sicurezza di alcuni edifici, ahimè, negli anni passati. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Chiaramente parleremo anche, per quello che riusciamo a sapere, del consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Andiamo adesso alla borsa e poi, ripeto, oggi e tutta la settimana il programma è ancora un format estivo, quindi terminerà alle 18, e poi andiamo alle prime inchieste sul terremoto. -1 e 12% Milano, -0,40 Parigi, -0,40 Francoforte, Londra, ricordo, chiusa, Bank Holiday, e invece Dow Jones +0,60%. Euro su dollaro quota 1,11. Il titolo più positivo, ed è anche l'unico bancario positivo, è il Monte dei Paschi +1,30%. E da lì vorrei partire con Paolo Paronetto, visto che oggi c'è il consiglio di amministrazione. Buonasera Paolo, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera a tutti. Sì, per quanto riguarda MPS, per tutta la seduta ha trattato in controtendenza rispetto al settore bancario, che è generalmente debole oggi in borsa. Il titolo è salito dell'1,27% sulla prospettiva riportata sabato dal Sole 24 Ore, che l'istituto possa tentare la carta di una conversione dei bond subordinati in mano agli investitori istituzionali per ridurre l'importo dell'aumento di capitale in vista. Naturalmente oggi molti analisti sottolineano la difficoltà di un progetto del genere, perché la conversione sarebbe volontaria e quindi dovrebbe in qualche modo convenire agli investitori istituzionali convertire i bond subordinati in azione, ma diciamo che il mercato almeno oggi ha preferito sperare in una soluzione che riduca l'impatto della ricapitalizzazione in vista, premiando il titolo della banca senese. Nessuna novità al momento da parte del CDA dell'istituto. Sì, nessuna novità, devo dire però che è l'unico titolo positivo, come stavamo commentando. La settimana scorsa era stata abbastanza buona sul fronte borsistico. Oggi, devo dire, perde meno di altri, Banco Popolare invariato, Unicredit meno 0,30%, e poi restando sui bancari, Intesa San Paolo perde lo 0,90%. Pop Emilia Romagna meno 3% invece. E poi andiamo invece anche sul titolo Fiat Chrysler meno 1,70%. Sì, in generale sulle borse la scorsa settimana è stata positiva, in Piazza Affari in particolare era stata la migliore con un rialzo del 3,2%, quindi oggi i realizzi generalizzati sui listini, Piazza Affari quello che ne ha fatto più le spese. Per quanto riguarda Fiat Chrysler, appunto in calo dell'1,7%, sembra allontanarsi la prospettiva di una vendita di Magneti Marelli a Samsung, che la settimana scorsa aveva sostenuto il titolo. Fiat infatti ha ribadito che almeno nel breve periodo la società rimane strategica. Inoltre c'è il rischio di uno sciopero in Canada che potrebbe realizzare e rallentare l'attività in Nord America, e quindi questo insieme di fattori oggi ha penalizzato il titolo in borsa. Poi Italcementi, oggi inizia l'OPA, no? Del gruppo Hildenberg. Heidelberg Cement, sì, del gruppo tedesco, hai ragione, scusa. L'OPA a 0,60 a 10,60 euro, il titolo ormai da tempo inchiodato su quella soglia, oggi ha chiuso invariato a 10,58, comunque oggi appunto parte formalmente l'OPA, e quindi diciamo che questo è il motivo che mette sotto i riflettori il titolo, che però appunto a Piazza Affari ormai è allineato al livello del prezzo offerto dai tedeschi ormai da tempo. Che è successo a Cell Therapeutics? Stavo guardando adesso i migliori e i peggiori e il titolo è andato molto bene, ma tra l'altro vedo il migliore in assoluto è CT Biopharma, più 19%, compagnie De Santi più 13%, poi Alerion più 7,90%. Anche su Alerion ci sono novità. Sì, esattamente. CT Biopharma, cioè l'ex Cell Therapeutics, appunto è salita del 19%, era stata anche sospesa da borsa e in attesa di comunicato questa mattina, ed è salito appunto dopo aver annunciato l'esito positivo del test su un farmaco prodotto della società. Naturalmente si tratta appunto di sperimentazione, quindi ancora non c'è la commercializzazione del farmaco, ma già l'esito positivo della sperimentazione ha premiato il titolo. Per quanto riguarda Alerion, è salita del 7,95% e dopo l'annuncio dell'OPA amichevole di Friel Green Power. Il titolo è salito avvicinandosi al prezzo offerto dell'OPA, anzi proprio chiudendo sul livello del prezzo dell'OPA, 1,9 euro per azione, e naturalmente fin dalle prime battute questa notizia ha sostenuto le quotazioni. Ancora Prada, però la notizia arrivano da New York, da Hong Kong. Da Hong Kong, esattamente, il titolo è stato uno dei migliori sulla borsa asiatica, è salito di circa il 12% dopo i conti annunciati venerdì, e in particolare la conference call. Prada infatti ha annunciato che vede il 2016 come un anno di trasformazione, nel primo semestre sono scesi 6 ricavi, 6 margini, ma già nell'anno prossimo punta a tornare alla crescita grazie soprattutto a un maggiore sviluppo delle vendite online. Una trasformazione che è piaciuta al mercato, che proietta la società diciamo più nella modernità, soprattutto per quanto riguarda i canali di vendita. Il titolo oggi ha sostenuto un bel rialzo a Hong Kong. Allora, grazie intanto a Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore. Tra i titoli che non ho citato come cali, oltre a Generali Saipem, Uniposai, anche Enel meno 1,50, Exxon meno 1,50, Poste meno 1,40, Yux Net a Porte meno 1,40, Prismian meno 1,20%. Allora, rispondo rapidissimamente sul primo tema, il fatto che siano saltati di fatto con le dichiarazioni tedesche i tentativi di accordo tra Stati Uniti e Europa che vanno sotto nome di TTIP. Tutto bene, cioè, abbiamo detto i rischi, abbiamo ricordato le preoccupazioni, abbiamo ricordato anche i motivi di chi era fortemente ed è fortemente contrario a questi trattati, e facendo anche degli esempi concreti. Però, cioè, ma perché scrivere grazie a Dio la vera informazione la facciamo noi attivisti, stop TTIP? La vera informazione si fa dicendo le preoccupazioni di uni e sentendo anche chi era a favore, no? Sempre sta idea che la vera informazione la fa l'attivista, ma dai. L'attivista fa informazione di parte, giustamente, perché crede in una causa, quello che è, ed è no, no, no su tutto. Chi è a favore è sì, sì, su tutto, noi cerchiamo di tenere dentro di noi, sì, e poi ognuno si faccia la sua idea. Ma basta con questa cosa, la vera informazione che la fanno solo i militanti e gli attivisti. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, traffico. Focus Economia. Allora, mentre sono ancora 10 dispersi e la cifra delle vittime resta 290, le vittime del sisma che ha colpito il centro Italia, il Consiglio dei Ministri ha stanziato per ora 50 milioni di euro attinti ai 234 milioni del Fondo per l'Emergenza Nazionale, e il Ministero dell'Economia ha disposto la sospensione degli obblighi fiscali e contributivi per le popolazioni colpite, stop anche i pagamenti delle bollette di acqua, luce e gas. Delle regole europee abbiamo già detto prima, che comunque contemplano la possibilità di escludere le spese straordinarie dovute ai disastri naturali dal patto di stabilità e quindi dal deficit, occorre un impatto improvviso sulle finanze. Vabbè. L'Italia è già il primo paese per utilizzo del Fondo Europeo di Solidarietà per le Calamità. Tra il 2002 e il 2015 noi abbiamo attinto al Fondo Europeo per 1 miliardo e 300 milioni di euro, un terzo di tutte le somme erogate quanto a calamità nei 28 paesi membri. I danni è ancora presto per fare il calcolo. Confesercenti oggi stima un danno per le piccole e medie imprese intorno agli 11 milioni di euro, ma continua, e io lo ringrazio anche come lettore, continua l'inchiesta di Mariano Maugeri, inviato fin dalle prime ore, l'abbiamo avuto in collegamento già da mercoledì scorso, sui luoghi del disastro, sui lavori. E qui io ho capito, la scuola che crolla è chiaramente l'esempio, io non voglio partire già con la classifica del venerdì, l'esempio di quello che non può essere accettabile, 700 mila euro di lavori per una scuola che viene giù come un grissino. Però Mariano Maugeri si è accorto anche di altre cose, non stiamo facendo un processo in diretta, però intanto lo ringrazio, ciao Mariano. Ciao. Di nuovo in collegamento. Cos'è sta cosa del vice sindaco geometra Sergio Pirozzi, che adesso allena il Trastevere, per inciso, che avrebbe costruito mezza matrice? Ripeto, non vogliamo fare processo in diretta, però qua è venuto giù un paese, i geologi di tutto il mondo, compresi quei giapponesi, ci dicono che con un sisma di magnitudo 6 non doveva crollare in quel modo. Prego. Semplicemente che ci sarebbe, c'è un'incompatibilità grande quanto una casa tra un ruolo politico come quello di vice sindaco e quello di responsabile insieme al fratello o di una ditta di costruzioni che lavora ad Amatrice da almeno una quindicina, una ventina d'anni. E che ha fatto tante lottizzazioni in quel territorio. Adesso questo è un dato, come dire, oggettivo, il dato sulla loro attività. Il dato politico-etico che noi abbiamo rilevato è che tra questi ruoli ci sarebbe un'incompatibilità, perché un vice sindaco che vota in consiglio comunale non si può esprimere sul suo progetto presentato da se stesso e dal fratello. Appena appena, diciamo. Ecco. Vogliamo chiamarla governance, chiamiamola anche Maria, però insomma mi sembrerebbe il minimo sindacale. Bravo. È il minimo sindacale, e questo dà il senso anche insomma di come, quale sia la percezione del problema dell'etica pubblica, della trasparenza, perché il sindaco sostanzialmente liquida tutto dicendo io me ne frego, oppure io sono il sindaco di chi mi ha votato. Questo un po' è la cifra di Amatrice, e io ho fatto semplicemente un passaggio logico, ho detto cosa sarebbe accaduto se non fosse capitato in questo bellissimo paese, perché è un paese splendido, e prima del terremoto, quali sono le dinamiche sociali, umane e politiche, soprattutto politiche, ed è saltata fuori questa cosa che insomma, sì, tra l'altro tu fai anche un altro ragionamento che adesso nel pieno della tragedia, però la scuola che è crollata è gravissimo per i soldi, ma soprattutto perché l'unico elemento, se vogliamo, positivo è che le scuole non hanno ancora riaperte, rendiamoci conto di questo, nei lavori della scuola. Poi tu scopri però che c'è anche il sindaco di Accumoli, anche qui nessun processo nessun processo radiofonico, però è sindaco di Accumoli, è geometra con studio tecnico e qualche lavoro da matrice. Però voglio dire, questo delle due l'una, o voglio dire, almeno avere un vice sindaco e un sindaco geometra che fanno costruzioni ti dovrebbe dare qualche sicurezza in più sulla qualità, oppure qui c'è un problema complessivo, perché quello che sta emergendo non è solo, abbi pazienza Mariano, il caso clamoroso, vergognoso, inaccettabile della scuola che viene giù dopo i lavori di consolidamento nel 2012, ma è un po' tutto, o no? Sì, e non dobbiamo comunque neppure stupirci, perché se fossimo andati in altre parti d'Italia, al sud o al nord, probabilmente avremmo trovato gli stessi intrecci. Come giustamente rileva il lettore qualche ora fa che mi ha scritto, è esattamente lo specchio della dinamica italiana. Andavano da Matrice a rendere omaggio al sindaco, prima Alemanno, sindaco di Roma, adesso Zingaretti, cioè non è cambiato assolutamente nulla. Nessuno che abbia suggerito a questo sindaco abbassa i toni, perché non ha senso proclamarsi il numero uno, anche se lui, come dire, ha questo imprinting sportivo, perché se come sai è l'allenatore del Trastevere, quindi sì, è molto grintoso, ed è questo positivo, ci mancherebbe altro. Ma c'è una lotta, c'è stata una lotta feroce in consiglio comunale con la minoranza. Sta andarsi a vedere appunto il sito di questa lista civica, che in tutti i modi ha cercato di riportare alla ragione Pirozzi, appunto sulle regole condivise, perché non c'è democrazia senza regole condivise, ma praticamente il risultato è stato nullo. Comunque noi continueremo a raccontare questo, chiaramente nel massimo rispetto delle vittime, però bisogna anche iniziare, oltre che a piangere le vittime, a capire perché cavolo succede. Vedo che alcuni mi scrivono, sa quanti casi del genere di vice sindaco, costruttore, progettista ci sono in Italia? No, non lo so. Devo dire che però non mi piace nemmeno lo scaricabarile da parte di tutti. Lo Stato ha le sue responsabilità, per carità, però attenzione, anche gli enti locali si assumono ogni tanto le loro responsabilità. Grazie intanto a Mariano Maugeri in collegamento con noi. È veramente tutto per questa prima puntata della settimana di Focus Economia. Ripeto ancora una volta, tutta la settimana terminerà alle 18, poi della settimana prossima orario tradizionale fino alle 18:30. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione. Si sente. Michi.